E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, in un'altra seduta in cui le borse sono incerte, un po' deboli, ma nulla di preoccupante. Di nuovo la giornata si caratterizza per il dibattito, chiamiamolo così, tra regioni e Stato. A questo punto si sono aggiunti in maniera anche netta i comuni, e quindi tagli della manovra finanziaria alle regioni e ai comuni, con la richiesta che le regioni cosiddette virtuose non debbano subire questi tagli, perlomeno in maniera così massiccia, e anche l'intermediazione che sta compiendo Umberto Bossi, il quale ha detto questa sera incontrò il ministro Tremonti e parleremo, vedremo se c'è margine. Le regioni hanno poco, già poco, occorre aiutare quelle più virtuose, dare il via per aiutare quelle più virtuose, e ha detto vedremo cosa si riesce a fare questa sera con il ministro all'economia. Leggermente diverso invece il giudizio del ministro al welfare Sacconi, che ha detto vabbè, si potrà raggiungere, alla fine sarà possibile raggiungere un'intesa, però le regioni riflettano su se stesse. E di questo parleremo sia in apertura con il taglio, insomma è veramente impossibile tagliare la spesa delle regioni, oppure anche le regioni cosiddette virtuose poi all'interno di questo virtuosismo, cioè che non vanno in deficit per esempio sulla sanità, usano i soldi in maniera opinabile, e dico opinabile perché essendo soldi nostri il giudizio spetta anche a noi, non sono soggetti privati, in effetti sono soggetti pubblici, e quindi la decisione se costruire una nuova sede faraonica piuttosto che dotarsi di nuove auto blu super accessoriate o di sedi all'estero o di spendere i soldi della pubblicità per la regione in maniera o anche quanto spendere di promozione per la regione, è una decisione su cui noi abbiamo diritto di mettere becco, perché tutti quanti, perlomeno così presumo, si pagano le addizionali regionali, IRPEF e quant'altro, quindi i soldi sono dei contribuenti. Avremo invece nella seconda ora l'altro lato, ossia i presidenti delle regioni, che ci diranno perché invece questa finanziaria così com'è fa venire meno il federalismo fiscale e rende inaccettabile la manovra, obbliga le regioni a non garantire più alcuni servizi essenziali, fra cui il trasporto. Allora, questo per quello che riguarda il tema italiano, italianissimo. Per quello che riguarda invece i temi europei, avremo anche un breve approfondimento sulla discussione che è nata in Europa, non tanto sulla Spagna. La Spagna oggi è più tranquilla, l'asta dell'obbligazione spagnola è andata abbastanza bene, per cui, ma sulla proposta che è arrivata da Angela Merkel, quindi cancelliere tedesco, di nuovo di colpire, tassandoli chiaramente, gli autori di questa crisi. La Merkel ha detto che bisogna tassare chi ha messo a rischio il mercato. E l'idea di una tassa sulle banche è anche un'idea di una tassa sulle transazioni finanziarie. Non è la Tobin tax, ma ci si avvicina moltissimo. E questo l'ho detto parlando al vertice dei leader europei, arrivando al vertice dei leader europei in programma A, Bruxelles. I mercati finanziari devono essere resi più responsabili. E di una tassa sulle banche, di un prelievo sulle banche, in modo che le banche contribuiscono a questa crisi, è anche il giudizio che è arrivato dal Consiglio europeo, per cui nella bozza delle conclusioni che sarà discussa dai capi di Stato e di Governo del 27 ci dovrà essere anche la richiesta ai paesi europei affinché introducano una tassa sulle banche e facciano partecipare le banche alla gestione della crisi. Dicevo sulle obbligazioni spagnole, invece bene l'asta, collocati 3 miliardi e mezzo a 10 e 30 anni di bot spagnoli, di BTP per meglio dire, spagnoli, e tra l'altro li ha collocato al volume massimo, per cui il tasso di interesse che ha pagato è salito di un altro 20%, ma insomma non c'è stato problema nel reperire sottoscrittori. 349-238-6666 per i vostri SMS, di questo parleremo quindi. Partiamo subito con le altre notizie in breve, e quindi i mercati finanziari. Allora, 1,2370 è il livello del rapporto euro-dollaro, 1,2370, quindi sempre in leggero rafforzamento l'euro. Le borse, si diceva, Milano invariata, Parigi invariata, Francoforte più 0,2, Londra quasi invariata, più 0,08%, non è cosa, e l'America meno 0,5% in questo momento sul Dow Jones. Tra i titoli, Impregilo guadagna il 3%, Atlantia il 2,3%, Autogrill il 2%, A2A l'1,2%, Ansaldo lo 0,90%, come Fiat lo 0,60% e rialzo di Unicredit, ma anche di Mediaset. Chi cala? Di nuovo Geox, meno 2,2% a 3,85€, Campari meno 2%, Mediolanum meno 1,80€, Azimut meno 1,70€, Saipem 1,5% di calo, Popolare di Milano meno 1,3%, Snam meno 1,2%, Eni meno 0,80%, come Tenaris, CIR e il Monte dei Paschi, lo 0,80% lo perde anche il Banco Popolare. Vedo già dei messaggi, insomma, sì, ma non facciamo le pulci a chi è virtuoso. No, si tratta di capire se veramente non si possa, al di là della spesa sanitaria in cui gli sprechi sono palesi, ce ne siamo occupati molte volte, casi assurdi, soprattutto al sud, si tratta di capire se veramente anche le regioni cosiddette virtuose non possono tagliare qualcosa nelle loro scelte e se le scelte siano sempre prioritarie. Non è che tutto il bene sta al nord e tutto il male sta al sud, ci sono anche delle cosette che adesso andiamo ad analizzare in Lombardia, in Veneto, in Piemonte, in Lazio. Vabbè, andiamo avanti con le notizie in breve. Invece, in America i dati sui sussidi di disoccupazione sono aumentati a sorpresa di 12.000 a 472.000, quindi i sussidi di disoccupazione totali. Il superindice economico americano è salito dello 0,4%. Per quello che riguarda gli Stati Uniti, della Spagna abbiamo già detto, e anche della proposta europea di cui parleremo poi dopo i mercati, di tassare le banche europee e di rafforzare gli strumenti di intervento in caso di crisi. Ancora parleremo anche dopo i mercati del rapporto Censis sull'immigrazione. La cosa che ha fatto notizia è che il Censis dice: beh, attenzione, ormai gli immigrati sono come gli italiani, il 32% lavorano in nero, 3 su 10 guadagnano meno di 800 euro, ma 1 su 2 sono assunti a tempo indeterminato. E va bene così. Adesso il primo tema, che poi ripeto riprenderemo, le due voci, chi è critico sul fatto che comunque le regioni tutte possono risparmiare e chi invece, come il Presidente delle Regioni, dice no, attenzione, questa manovra finanziaria ci penalizza troppo, è in larga parte giocata proprio sulle regioni e quindi non riusciremo a garantire alcuni servizi essenziali. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, i tagli nella finanziaria e alla prova di quello che era l'ipotesi anche di federalismo fiscale. Allora, se il presidente dell'ANCI, quindi dei comuni italiani, Sergio Chiamparino, ha chiarito che oggi pomeriggio, tra poco praticamente, salirà al Quirinale per incontrare il presidente Giorgio Napolitano e parlare della manovra e delle iniquità verso gli enti locali, Chiamparino ha anche ribadito che la posizione dei comuni sulla manovra è unanime, di centrodestra e di centrosinistra la pensano tutti nello stesso modo. Tant'è che il 23 giugno ha annunciato una manifestazione dei sindaci a Roma e anche il sindaco della capitale, Alemanno, dice: senza aperture da parte del governo sono pronto a manifestare anch'io e garantisco la piena partecipazione di tutti i sindaci del mio partito. E allora, auguri anche al ministro Tremonti. Perché? Perché tra l'altro dei tagli hanno parlato questa mattina nel programma 9 in punto, Radio 24. Da un lato il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, che ha ribadito quanto iniqui siano questi interventi sulle regioni. si vede che alle regioni viene chiesto il contributo di oltre il 50% di questi 25 miliardi. Se a questa oltre il 50% delle regioni si aggiunge poi il contributo chiesto ai comuni, alle province, si vede che lo Stato, il comparto centrale dello Stato, i ministeri, danno un contributo minimo. Cioè, in un momento difficile in cui il buon padre di famiglia chiama attorno a 6 figli e distribuisce equamente innanzitutto su se stesso e poi sui figli i sacrifici, qui abbiamo invece un padre che io ho chiamato un padre sciamannato, che prende un figlio solo, lo carica di una somma insopportabile, dà qualcosa anche agli altri figli e lui invece se ne va a spasso facendo spallucce, perché quando ai ministeri viene chiesto un contributo dell'1-2%, perché questo è il contributo che la manovra chiede ai ministeri, beh, si vede subito che c'è una ineguaglianza inaccettabile. Vuol dire che si vogliono ammazzare le regioni, consapevoli o inconsapevoli che se ne sia. Così il Presidente della Regione Lombardia Formigoni. Siamo tutti d'accordo che la Sicilia, che è una regione autonoma, tra l'altro abbia 5-6 volte i dipendenti della Regione Lombardia, che gli sprechi al sud siano più alti rispetto al nord, soprattutto nella spesa sanitaria, che dentro ci sia spesso anche la criminalità organizzata, che il senso anche di impunità di alcune regioni del sud, Sicilia, Puglia, Campania, sia più alto, impunità da parte della cosiddetta casta sia più alto. Però il nostro invito era dire: attenzione, non siate manichei, non è che tutto il male sta lì e qua è tutto bene, sprechi in Lombardia, in Veneto, in Trentino Alto Adige non ce ne sono. Comunque sentiamo anche il ministro Raffaele Fitto, ministro per gli affari regionali, sempre nel programma 9 in punto questa mattina con Oscar Giannino. Noi pochi mesi fa, non molti anni fa, abbiamo sottoscritto un accordo con le regioni per il nuovo patto per la salute. In quell'accordo abbiamo inserito 4 miliardi di euro in più assegnati alle regioni, da 102 a 106 miliardi. Dico questo perché il trasferimento complessivo che il governo fa nei confronti delle regioni è di circa 160 miliardi di euro. Oggi noi incidiamo, senza toccare in alcun modo l'aumento che confermiamo di 4 miliardi di euro, e quindi senza incidere sulla grande massa di spesa sanitaria che noi trasferiamo alle regioni, discutiamo esclusivamente della parte residua rispetto ai tagli che vengono inseriti all'interno di questa manovra. E dico questo perché quando parliamo di federalismo e di costi standard è evidente che l'80% circa, in qualche caso anche superiore, del trasferimento del governo nei confronti delle regioni è sulla spesa sanitaria, e se è vero come è vero che noi aumentiamo in modo concordato pochi mesi fa la spesa sanitaria e non tocchiamo con questa manovra questo aumento che confermiamo, e quindi mettiamo 4 miliardi in più che nel saldo e nei conti dovrebbero essere tenuti della debita considerazione nei confronti delle regioni, è evidente che il tema dell'approccio al federalismo non subisce, rispetto alla definizione dei costi standard sulla grande voce della sanità, nessun tipo di contraccolpo. Così appunto il ministro Raffaele Fitto, che ha ricordato come qualche mese fa si sia arrivati a 4 miliardi in più, soprattutto di spesa sanitaria, per le regioni. Ma allora andiamo a vederle queste cifre, perché sennò qua ognuno, no, dice la sua. E a chi scrive al 349-238-6666, ricordo che adesso ci occupiamo del lato, insomma, possono risparmiare comunque le regioni, poi sentiremo la voce di altri presidenti e governatori delle regioni. Le regioni spendono 117 miliardi nel 2009, di cui 107 per la sanità. In deficit sanitario sono per 3 miliardi e 7 complessivamente, soprattutto Calabria, Campania, Lazio, Molise e Puglia. I tagli previsti da questa manovra finanziaria: 8 miliardi e mezzo di euro in meno alle regioni per 2 anni, per le regioni a statuto ordinario, 1 miliardo e mezzo in meno, sempre per i prossimi 2 anni, per quelle a statuto speciale. Ai comuni invece arriveranno 3 miliardi e 400 milioni in meno, sempre in 2 anni, 640 milioni in meno alle province. Secondo le prime stime, poi, i tagli alle regioni colpirebbero soprattutto i trasporti, 2 miliardi e 300 milioni in meno, il territorio 1.200.000.000, l'amministrazione 1.200.000.000 in meno anche qui, l'assistenza sociale 880.000.000 in meno, l'industria, commercio e artigianato 640.000.000, non è oggetto di tagli, almeno per ora, la sanità. Infine le regioni più penalizzate. Allora, il Lazio 1.300.000.000 in meno, la Calabria 1.200.000.000, la Lombardia 950.000.000, il Veneto 808.000.000, l'Emilia Romagna 600.000.000. E al di là della trattativa che immaginiamo condurrà questa sera Umberto Bossi, che ha detto vedo Tremonti e vediamo cosa fare, io saluto e ringrazio per averci raggiunto in collegamento Sergio Rizzo, quindi chi si aspettava Ricolfi si è sbagliato, collega del Corriere della Sera e autore, come molti di voi ricorderanno, con Gian Antonio Stella di un mitico libro, La Casta. Sergio, buonasera. Buonasera a voi. Fermo restando appunto che è vero che le regioni si caricano della maggior parte, della parte più consistente probabilmente di questa manovra, assieme al pubblico impiego, e siamo tutti d'accordo che insomma, i tagli debbano essere anche mirati, che esistano regioni virtuose, però tu recentemente hai scritto, insomma, attenzione perché qualche cosa le regioni stesse potrebbero tagliare. Iniziamo per esempio da questa cosa assurda che spesso abbiamo criticato degli uffici di rappresentanza all'estero. Dacci qualche cifra, qualche numero, anche perché non sono solo le regioni del sud ad avere manie di grandezza. Sergio? No, è assolutamente vero questo. Basti pensare che l'Italia ha 21 uffici di rappresentanza delle regioni, due dei quali delle province autonome di Trento e Bolzano, a Bruxelles. No? Adesso vi devono spiegare alcune regioni, io adesso non discuto che magari ci possono essere delle finalità, ma mi devono spiegare intanto che senso ha, in secondo luogo perché alcune regioni, faccio per esempio il Molise che ha 320.000 abitanti, debba avere un ufficio di rappresentanza a Bruxelles. Un altro caso, la regione Campania aveva affittato un appartamento a New York per una sede di rappresentanza a New York, 1.140.000 euro l'anno. 1.140.000 euro l'anno. Sì, questo nei bilanci c'era della regione Campania. E la faccia dell'appartamento. Una roba seria. La regione Lombardia aveva addirittura una rete di consolati all'estero, più di 20 consolati all'estero, nei vari paesi. La Sicilia, questa casa Sicilia, che erano state istituite ai tempi della precedente giunta, sono un po' dappertutto in tutto il mondo, ce n'è una anche in Cina se non sbaglio. Quindi, e anche in Argentina se non ricordo. Sì, ma appunto sono cose che oggettivamente capiamo tutto, capiamo la globalizzazione, però poi i cittadini pagano con le loro tasse queste cose. Sì, noi in questi anni abbiamo anche raccontato, devo dire, ci siamo presi anche delle minacce di querela, per esempio in Cina, che è un paese che spesso abbiamo visitato con questo programma, del palazzo della regione Lombardia abbandonato a se stesso fuori da Shanghai, o del palazzo della regione Emilia Romagna invece che assomiglia più a una vetrina di un negozio nella parte più cara di Shanghai. Non si capiva nei due sensi l'utilità di avere o una specie di agenzia di viaggi da un lato, quello dell'Emilia Romagna dall'altro, quello della regione Lombardia, una cosa faraonica, ma ormai quasi in aperta campagna, senza che noi mai si sia visto un visitatore, soprattutto con tutti gli stand delle aziende italiane incelofanati, ancora ricoperti di polvere, una cosa insomma. Ma al di là di questo, insomma, lì già un bel risparmio ci sarebbe, perché queste ambasciate regionali, così come le missioni delle regioni all'estero, non si capisce perché devono partire. Vogliamo parlare invece delle sponsorizzazioni? Io per esempio ho scoperto, ma questo è un fatto noto, ho scoperto le cifre, che la Regione Calabria per 3 anni ha sponsorizzato la Federazione Italiana Gioco Calcio con una cifra di 8 milioni di euro che sono serviti in parte per finanziare degli spot, molti li avranno visti, quelli col calciatore Rino Gattuso. Cioè, ma perché la Regione Calabria deve sponsorizzare la Nazionale di Calcio? Io questo francamente la considero una cosa abbastanza singolare. Poi si è detto che questi tagli colpiscono i trasporti. Ma meno male, arrivo a dire, se è vero che c'è una regione del sud che controlla un'azienda di trasporto pubblico locale che mantiene, che è il principale sponsor di una squadra di basket di Serie A1. Possiamo fare i nomi? Sì, ma c'è la regione Campania, è una squadra che si chiama l'Aira Avellino, che ha sulle magliette scritto AIR, che sta per autoservizi irpini. Cioè, voglio dire, ci sono delle cose che non sono oggettivamente comprensibili se non diciamo con motivazioni che nulla hanno a che fare con l'efficienza di quell'azienda di trasporto oppure di un'altra azienda, ma evidentemente hanno motivazioni di tipo diverso, insomma. Sì, ecco, io vedo i messaggi al 349-238-6666, c'è chi dice vabbè, ma una regione può anche, è libera di sponsorizzare dove e come crede, per carità, ci mancherebbe, uno può comprarsi la cartellonistica. Attenzione, quelli sono soldi nostri, cioè non bisogna mai dimenticarlo questo, perché sennò si commette l'errore che commettono di solito i politici, cioè quelli di pensare che i denari di tutti sono i denari di nessuno, mentre invece i denari di tutti sono i denari di tutti. Questo lo devono tenere bene a mente. Ora, io non discuto che questi tagli saranno dolorosi, perché lo saranno dolorosi, intendiamoci, ma nessuno ha mai fatto una riflessione sul fatto, per esempio, che queste nostre regioni siano diventate loro stesse l'emblema del centralismo? Cioè, a forza di dire che bisognava decentrare, abbiamo creato dei mostri veri e propri, perché basta guardare le cifre che voi avete detto, no? Se togliamo la sanità, che è la parte più grossa, ma rimangono sempre 70 milioni di euro, miliardi di euro, 70 miliardi di euro, cioè non è una lira, e tutti gli interessi che noi paghiamo ogni anno sull'immenso debito pubblico che abbiamo, ebbene noi una cifra analoga la utilizziamo per le regioni. Allora, forse il loro ruolo andrà in qualche modo ripensato, forse andranno ripensati anche certi meccanismi di spesa, certi meccanismi di autonomia della spesa, perché insomma certi numeri fanno oggettivamente, diciamo la verità, fanno impressione. Quando veniamo a scoprire che ci sono delle regioni che stanno progettando investimenti immobiliari molto rilevanti, no? Per la nuova sede, per esempio, della regione, come accade, ripeto, ancora una volta in Molise, ma poi accade anche in Lombardia, eccetera, Lombardia, questo, c'è un grattacielo immenso che sta per essere ultimato. Ecco, questo, diciamo, immaginiamo che fosse necessario, però si poteva deve trovare anche una riflessione, deve indurre una riflessione questa cosa, deve indurre una riflessione su come vengono utilizzati i soldi di tutti. Si sta cercando di capire, per non fare sempre del massimalismo all'italiana, i buoni tutta una parte, i cattivi dall'altra, se anche le regioni non possono tagliare qualcosa. E allora, Sergio Rizzo, oltre ai casi che ci hai raccontato, tra l'altro volete sapere quanto costa il neopalazzo della regione Lombardia? Alle ultime cifre che abbiamo a disposizione, 400 milioni di euro. Per carità, nessuno vuole sindacare sulle scelte della regione, però sono soldi nostri, nel caso specifico di chi vi parla, visto che paga le tasse in Lombardia, e magari una regione può anche chiarire se è più importante avere un nuovo grattacielo o dei nuovi trasporti pubblici, o perlomeno non dire che proprio non riesce a garantire i servizi essenziali se è appena messo in cantiere ed è quasi ultimato un palazzo da 400 milioni di euro. Allora, su questo c'è il tema dei soldi, Sergio, di quanti soldi vengono spesi. Tu citavi gli 8 milioni di euro con cui la Calabria ha sponsorizzato la Federazione Nazionale di Calcio per avere un ritorno turistico, ma a mio avviso e questi chiaramente sono dei soldi che poi non utilizzi per altre spese di tua competenza, trasporti piuttosto che altre spese sanitarie. Ma c'è anche il tema delle priorità, perché non vorrei che il tema delle regioni virtuose fosse un modo per dire a noi la finanziaria non ci deve toccare, quindi per uscire dalle tenaglie della finanziaria. Cosa vuol dire virtuosi? Qui bisogna intendersi, perché non è detto che una regione che spende magari perché ha più risorse finanziarie e che quindi ha minore incidenza di spese di questo tipo sia più virtuosa di un'altra, no? Facciamo il caso della Lombardia. La Lombardia è sicuramente una regione ben amministrata, non discuto, ma ci sono alcune decisioni sinceramente che un pochino fanno riflettere. Abbiamo parlato della nuova sede, per esempio, no? Ma siamo sicuri che fosse proprio necessario spendere tutti quei soldi? Insomma, si tratta di intendersi sul termine virtuosità. Virtuosità vuol dire amministrare bene le risorse pubbliche come un buon padre di famiglia, no? Secondo una tradizione, certo, italiana, no? Il buon padre di famiglia. Ma non, per esempio, come dire, come fanno alcuni, appunto, utilizzare i soldi rilevanti, risorse pubbliche per iniziative che nulla hanno a che vedere con, penso per esempio alle finanziamenti a pioggia che erano attribuiti per diritto ai singoli consiglieri regionali del Lazio. No, c'è stata tutta una polemica su questa cosa. Penso per esempio a tutti i dipendenti della regione Campania, del Consiglio regionale della Campania, assunti senza concorso, trasferiti da imprese pubbliche locali, dove venivano assunti appunto per chiamata diretta e poi passati alla sfera politica, al Parlamento. 500 persone stiamo parlando, mica scherzo. Persone. Per cui dico, insomma, qui cosa vuol dire? Che per la Campania, siccome diciamo è un po' più, dai conti un po' più scassati, non è virtuosa, mentre invece se lo facesse la stessa cosa, magari il Veneto sarebbe virtuosa. Sì, il Veneto, di cui ricordiamo per esempio le auto blu super accessoriate, no? Anche quello mi devi spiegare se veramente l'assessore o il presidente della regione deve girare con un'auto del genere. Per quello che dico, non credo. Cioè io penso che alcune cose, indipendentemente dal fatto se una regione sia o meno virtuosa, tra virgolette, non si devono fare comunque. Sì. Appunto, va detto che la virtù invece nelle spese sanitarie si vede un po' di più, Sergio Rizzo, perché lì abbiamo dei deficit che sono sempre riconducibili alle stesse regioni: Calabria, Campania, Lazio, un po' la Puglia. Cioè, sulla gestione della sanità, obiettivamente le altre regioni sono più virtuose, cioè non vanno in deficit, perlomeno mettiamola così. Beh, naturalmente è vero questo, è verissimo, addirittura mi pare che in alcune situazioni in Calabria le ASL non abbiano neanche i bilanci. No, ma poi li abbiamo raccontati in questi anni. Questo è assolutamente vero, ma lì però bisognerebbe intervenire, diciamo, con la mano ancora più pesante. No? Col commissariamento, come è stato fatto? No, secondo me col commissariamento si risolve veramente poco, come ha dimostrato il caso della Calabria, che è stata commissariata, ma non mi sembra che le cose... secondo me lì il punto è un altro, il punto è quello di far funzionare effettivamente un meccanismo di costi standard, però devono essere verificati. Non si può dire, affermare il principio di costi standard e poi non si verificano. Allora, per esempio, nella manovra era stata introdotta una norma che, diciamo, vincolava ai parametri Consip tutti gli acquisti. Sì. E questa è una cosa che penso che potrebbe funzionare, certo, se venisse applicata con un certo... Comunque, mettiamola così, siccome abbiamo sentito anche le richieste e le rimostranze del Presidente della Regione, tutto vero, i tagli sono indubitabilmente anche e soprattutto a carico delle regioni. Detto ciò, attenzione, perché anche nelle cosiddette regioni virtuose ci sono delle scelte che obiettivamente... Visto che sono soldi nostri, ha molto ragione Sergio Rizzo, non è un'azienda privata che è libera di investire in pubblicità dove vuole e poi ne risponderà agli azionisti, sono soldi nostri, magari, non so, sarebbe stato interessante sapere se i lombardi volevano veramente quel grattacielo enorme al posto di Pirellone, oppure se i venti volevano le auto blu super accessoriati e via così, e se i campani sentivano l'esigenza di avere... o anche i siciliani delle sedi diplomatiche in mezzo mondo, magari sono soldi dei cittadini, quelli non sono esattamente di libero arbitrio, quindi qualcosa si può tranquillamente tagliare. Grazie a Sergio Rizzo per averci ricordato, insomma, che mettiamola così, facciamo i democristiani, la verità sta anche nel mezzo, non ci sono solo le regioni che devono piangere. Grazie Sergio. Grazie, arrivederci. Allora, è proprio questo il taglio. Adesso passiamo alla borsa, alla proposta di una tassa sulle banche e sui movimenti finanziari che arriverà dall'Europa, ma è proprio questo. Si può criticare la finanziaria e ascolteremo di nuovo le regioni su questo, ma si può anche dire che qualcosa possono risparmiare. La cosa incredibile è che abbiamo citato i casi campani, siciliani, del Molise, dell'Emilia-Romagna, del Veneto e anche della Lombardia, e sulla Lombardia non vi dico i messaggi. Al 349-238-6666, ma siete fuori di testa a criticare la Lombardia, che è la più virtuosa di tutte? E perché non si può dire che la Lombardia forse qualche scelta l'ha fatta sbagliata? Che è? E ancora, state facendo politica contro la Lombardia. Come se non bastasse, ma lo sapete quanto risparmierà di affitti la regione Lombardia? Il nuovo palazzo comporterà risparmi. Io non ho dubbi su questo, per ora ci sono 400 milioni di euro di costo, almeno, poi immagino che siano tutti affitti. Vi leggo subito un'agenzia appena battuta, praticamente c'è l'accordo a Bruxelles, secondo alcune indiscrezioni, sulla necessità di introdurre nei paesi dell'Unione Europea una tassa sulle banche, Però da quello che si è capito, visto che ci sono i leader dei 27 paesi a Bruxelles, da quello che si è capito, dicevo, ogni paese sarà libero di decidere i criteri in base ai quali applicare la tassa. E poi i 27 paesi europei si sarebbero anche messi d'accordo sull'inserire, nelle conclusioni finali del documento, una frase in cui ci si impegna a promuovere l'idea di una tassa sulle transazioni finanziarie, che dovrebbe essere analizzata nel prossimo G20 a Toronto. Allora, intanto la borsa, Paolo Paronetto, Radio Colle, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Tutto il giorno che parliamo, che raccontiamo di questa proposta europea di tassa sulle banche. Angela Merkel l'ha detto chiaramente questa mattina, anche loro devono contribuire alla crisi, chi l'ha generata questa crisi la deve anche in parte pagare. Non mi sembra che sulle banche questo abbia prodotto però in Italia un grosso calo di borsa, no? No, infatti il settore bancario è stato abbastanza tranquillo per gran parte della seduta. A livello europeo ha chiuso in realtà addirittura positivo, in rialzo dello 0,7%, probabilmente prima di muoversi sulla base di questa ipotesi, appunto, si attende di vedere come verrà messa in atto, anche perché, come dicevi tu, secondo le prime indiscrezioni, l'accordo a livello europeo è quello sul principio generale, che poi dovrà essere declinato dai singoli governi, quindi insomma la strada sembra ancora abbastanza lunga. Allora, veniamo ai casi di casa nostra. Il peggiore è Campari, -2,7%, Geox, -2,1%, Mediolanum, -1,80%, Saipem, -1,70%, come Azimut, l'1,2%, perde la Popolare di Milano, e Snam, Rete Gas, lo 0,80%, Tenaris. Chi guadagna? Impregilo, +3,3%, Autogrill, +2,3%, come Atlantia, A2A, +1,6%, Ansaldo, +1%, Unicredito, +0,80%, Fiat, +0,70%. Impregilo, bene, Autogrill e Atlantia, facciamo questi tre. Sì, Impregilo è stata in testa al listino fin dalla mattinata, in attesa del verdetto della Cassazione sulla vicenda dei rifiuti in Campania. La Cassazione si dovrà pronunciare sull'impugnazione da parte di Impregilo dell'ordinanza del Tribunale del Riesame, che aveva già ridotto il sequestro preventivo da 750 milioni a 266 milioni. Impregilo in particolare ha allungato il passo quando, secondo alcune indiscrezioni, il procuratore generale della Cassazione ha chiesto l'annullamento del sequestro preventivo, e quindi accogliendo di fatto le richieste della società di costruzione. Impregilo ha guadagnato oltre il 3%, come ricordavi tu, ed è stata la migliore del paniere, certo, principale. E anche Atlante è stata positiva fin dalla mattinata. Il titolo premia un generale, è stato premiato da un generale riposizionamento sui titoli difensivi, anche in vista delle scadenze tecniche di domani. Domani giungono a scadenza i contratti futures su azioni, opzioni e indici, le cosiddette tre streghe, e quindi gli operatori è vero, domani ci sono le tre streghe, esattamente, si stanno riposizionando anche in vista di questo, che non sono quelle Macbeth, ma appunto una congiuntura non astrale, una coincidenza che porta, lo ricordiamo a tutti, porta in realtà a far calare gli indici in maniera così innaturale, si può usare il termine, non lo so. Sì, perché devono essere regolate tutti i contratti futures, e quindi alcuni acquisti e vendite di titoli sono proprio dovuti a queste motivazioni tecniche. Allora, molti ascoltatori hanno sospetto che le banche oggi non calino nemmeno in Italia né in Europa, perché tanto se tassate si rifaranno sui correntisti. Non so, spero che il mercato non ragioni così, anche se... Vabbè, andiamo avanti. A2A. Sì, A2A beneficia anch'essa di questo movimento generale su alcuni titoli difensivi che erano stati un po' penalizzati nelle ultime sedute. Inoltre c'è un giudizio di Goldman Sachs che, pur avendo tagliato il target price, ha confermato la raccomandazione neutral, e quindi insomma non ha penalizzato particolarmente il titolo, che è stato premiato dagli acquisti con un rialzo dell'1,6%. Ricordavo solo che su Atlantia ci sono anche le indicazioni arrivate ieri dall'amministratore delegato Giovanni Castellucci, secondo cui anche nelle ultime settimane di quest'anno sta continuando il trend positivo per quanto riguarda il traffico, quindi indicazioni positive che hanno contribuito a sostenere il titolo. Geox, volete sapere al 349-238-6666 che cosa succede? È un po' che lo raccontiamo, il mercato è scettico sull'andamento delle vendite, anche nel settore in cui Geox si occupa, quindi calzature. Obiettivamente oggi un altro -2,1%, Paolo, che porta il titolo, insomma, a, controllo adesso il grafico storico, comunque a 3,85 euro per azione. Ricordo che insomma, praticamente a inizio anno viaggiava sui 5 euro per azione, 4,90 euro. Solo a maggio era poco sotto i 5. E anche a maggio, hai ragione, anche a maggio era 5,30-5,40. Geox da un lato, dall'altro però Campari che perde il 2,67%. Sì, Campari è stato il peggior titolo del paniere principale, qui è un generale vendite dopo che, bisogna ricordare, il titolo aveva corso molto negli ultimi mesi. Ancora a inizio giugno Campari è andata vicino ai massimi, anzi aveva fatto segnare proprio i nuovi massimi storici a 4,24 euro, e ancora martedì scorso si era nuovamente avvicinata, aveva chiuso a 4,23 euro. Secondo molti operatori il titolo ha quindi corso molto e ha raggiunto almeno al momento i suoi livelli massimi, quindi è il caso di alleggerire in parte il portafoglio, e le vendite di oggi si spiegano così. Migliori e peggiori: Finart, Casa d'Aste meno 4,40, Investimenti e Sviluppo meno 4,40, PMS meno 3,50, i migliori: Green Vision più 16, Bialetti più 16, Marcolin più 16,1%. Grazie a Paolo Paronetto. Detto ciò, adesso torniamo sul tema di attualità e, ripeto, riguarda le tasche di tutti noi, cioè manovra finanziaria alle regioni. Poco fa tra l'altro si è anche concluso l'incontro tra il sindaco di Chiamparino, in quanto presidente dell'ANCI, dell'Associazione dei Comuni Italiani, con il Presidente della Repubblica Napolitano, e quindi riprendiamo il tema alla luce anche di quanto ci ha raccontato nella prima mezz'ora Sergio Rizzo, cioè che in realtà le regioni e anche quelle del nord, anche quelle del nord, possono risparmiare un po' di più. Allora, subito la cronaca e l'attualità. È appena arrivata l'intervista a Sergio Chiamparino, che è uscito qualche minuto fa dal Quirinale, dove ha incontrato appunto il Presidente della Repubblica. Sentiamo il Presidente dell'Associazione dei Comuni Italiani. Presidente, intanto ci ha dedicato un considerevole tempo, si è dimostrato molto sensibile, cosa di cui peraltro non avevamo dubbi rispetto alle nostre istanze, e mi auguro che anche questo serva a, diciamo, a far capire al governo che sarebbe utile riaprire il tavolo di confronto a cui ci eravamo lasciati ormai quasi un mese fa, ripartire da quello che avevamo lasciato su quel tavolo e trovare un accordo. Così com'è la manovra, al di là di qualsiasi volontà, non è sostenibile. Quali sono le problematiche che avete posto davanti al Presidente della Repubblica e quelle che ovviamente volete porre al governo? Sono, guardi, molto semplicemente quella che con questo livello di tagli, che per i comuni poi vuol dire a vedersi aggiungere anche quelli che inevitabilmente verranno dalle regioni, vuol dire che non saremo più in grado di erogare servizi fondamentali per le famiglie e anche fare investimenti in conto capitale, che sono l'ossigeno per un sistema di imprese locali e per l'occupazione. A quanto ammontano i tagli complessivamente, i tagli ai comuni? Per il 2011 1,5 miliardi, ed ci eravamo lasciati al Ministero dell'Economia con 800 milioni, quindi è raddoppiata la cifra, e per il 2012 siamo a 2,5 miliardi anziché 1,5 miliardi come ci eravamo lasciati al Ministero dell'Economia. Chiediamo di tornare a quelle cifre e di ripartire di lì per discutere anche il patto di stabilità. Avete avuto delle aperture da parte del governo nelle ultime ore? Non abbiamo più avuto contatti del governo, se non qualche segnale dal punto di vista tecnico che riguarda il patto di stabilità, che però non è assolutamente sufficiente se non c'è anche una disponibilità a rivedere le cifre globali della manovra. Così appunto il presidente dell'ANCI Sergio Chiamparino, intervistato poco fa dal nostro Stefano Totoro all'uscita dal Quirinale. Avete sentito, insomma, insostenibile secondo Chiamparino la manovra, non solo per i tagli che già prevede per i comuni, ricordo in 2 anni 3 miliardi e 400 milioni in meno, ma anche perché poi, dice Chiamparino, anche le regioni che si vedono tagliare complessivamente 8,5 miliardi in 2 anni, insomma, si rivarranno sui comuni. E allora, se Sergio Rizzo ci ha raccontato nella prima ora perché anche le regioni e anche quelle del nord possono risparmiare, vediamo adesso di sentire l'altra voce, l'altra posizione. Ringrazio quindi per averci raggiunto in collegamento il Presidente della Regione del Piemonte, Roberto Cota. Buonasera, Presidente. Buonasera a voi. Allora, riassumo brevemente quello che ha detto Sergio Rizzo nella prima mezz'ora del programma. Attenzione, certo, al sud ci sono i casi più clamorosi, soprattutto nella spesa sanitaria. Voi siete virtuosi, siete in saldo come gestione, però anche le ambasciate, i consolati regionali in giro per il mondo, le spese per le auto blu, i nuovi palazzi delle regioni, delle province, dei comuni, insomma Treviso ne hanno appena inaugurato uno da 80 milioni di euro, si può risparmiare anche da parte vostra. Risposte di alcuni ascoltatori: ma se i soldi sono delle regioni possono fare quello che vogliono. No, i soldi sono nostri, insomma, se no anche lo Stato potrebbe dire la stessa cosa. Come si trova la quadra, fermo restando che questa sera Umberto Bossi incontrerà il ministro Monti? Gli sprechi sono sprechi, sia che vengano fatti dallo Stato che dalle regioni che dai comuni. Io infatti appena arrivato ho fatto una politica incisiva di razionalizzazione. Poi alcune di queste cose, uno dirà, non risolvo i problemi della regione diciamo tagliando queste cose, però visto che lei mi ha fatto esempi, io proprio le rispondo con questo tipo di esempi. Io ho dato subito mandato per, vuol dire che è già stata scritta la lettera, per dare la disdetta di una sede della regione a Roma che l'Abresso aveva affittato, 700 metri quadri, 33.000 euro al mese, cioè una cosa fuori dal mondo, no? Anche perché poi era lontana dal Parlamento e dagli altri uffici dove si deve andare quando si va a Roma a fare gli interessi della regione. Primo esempio. Secondo esempio, ho rinunciato all'uso dell'auto blu. Uno dirà, non risolve il problema della regione così. Vero, però si dà un segnale e questo ha comportato una drastica riduzione dell'uso di tutte le auto di servizio da parte della burocrazia regionale. E poi tante cose, nel senso che anche sulla sanità si può e si deve risparmiare molto. Infatti io sto facendo un lavoro per calcolare la spesa standard all'interno della mia regione, quindi per fare in modo che ci sia un parametro per capire chi spende, spande, chiede tutte le volte soldi e invece chi fa dei servizi con efficienza, quindi è giusto che venga pagato. Devo dire che sono perfetto, ho abolito il consigliere diplomatico che aveva invece l'Abresso. Ci sono sprechi anche, diciamo. L'ultima è il palazzo della regione, insomma non è ancora stato costruito, però hanno pagato al signor Fuxas una parcella da 22 milioni di euro e ne aspetta altri 3. Sì, devo dire che anche tutte queste regioni che hanno come priorità una nuova sede, parlavamo della Lombardia prima, della provincia di Treviso poi, insomma, non mi sembra così prioritario. Comunque, Presidente Cotta, come si trova una quadra su questi tagli? Perché i suoi colleghi sono furibondi, questa sera appunto il Ministro Bossi incontrerà il Ministro Tremonti, secondo lei? Secondo me questo tavolo che ci sarà tra il governo e le regioni è una cosa utile. E in questo tavolo si deciderà evidentemente, si parlerà di questo taglio, quindi si parlerà dell'ammontare dei saldi, dal nostro punto di vista si deve parlare anche di una cosa, e cioè del fatto che si deve trovare un qualche meccanismo che consenta di premiare le regioni virtuose, cioè il taglio non può essere orizzontale. Allora le regioni che negli anni non hanno rispettato per esempio il patto della salute, non hanno rispettato il patto della stabilità, o le regioni che hanno una sproporzione tra numero di dipendenti e i servizi che effettivamente rendono, e queste regioni in qualche modo devono essere, questi aspetti negativi devono essere considerati, non possono essere sempre i soliti che pagano allo stesso modo. E io dico questo portando, diciamo, un contributo costruttivo, dicendo che però insomma questa manovra il governo doveva farla e che è giusto che questa manovra sia stata fatta e che insomma quindi secondo lei Chiamparino, Errani e anche Formigoni sono troppo intransigenti? No, non si tratta di essere intransigenti, si tratta di dire la verità. Allora la verità è questa. fatta, la manovra va fatta, e si discute con il governo e è giusto discutere col governo, però bisogna essere costruttivi. Io pongo questo tipo di riflessione, non si tagli in maniera lineare e si premino i virtuosi e si penalizzino quelli che non sono virtuosi, non è che devono essere sempre i soliti a pagare. Sì. Poi io, se c'è un miglioramento per quanto riguarda il taglio alle regioni, sono contento da presidente della regione, però insomma io la penso esattamente in questo modo, e soprattutto non si dica una cosa che non è vera, e cioè che non si, questa manovra in qualche modo è collegata con il federalismo, nel senso che rallenterebbe il federalismo, che qualcuno la vede. Questa manovra ci dice che c'è bisogno velocissimamente del federalismo, perché il federalismo è la via per fare in modo che la razionalizzazione della spesa pubblica venga fatta incidendo sugli sprechi e mantenendo la qualità dei servizi e, se possibile, migliorando. Però una cosa, Presidente Cota, sulla spesa sanitaria, le regioni che sforano il tetto già si vedono aumentare l'IRAP, quindi lì c'è un meccanismo di penalizzazione purtroppo delle imprese e non dei cittadini. Sai in passato quanti soldi abbiamo dato per pagare certi buchi, per turare certi buchi, sì, presente? Sì, c'è anche destra, sinistra, presente certe regioni, E poi ricordo anche certi hanno ragionato che tanto paga Pantalone. Ricordo anche certi comuni, l'ultimo quello di Catania, 300 milioni per il buco di bilancio. Ancora due domande rapidissime, perché ci chiedono gli ascoltatori. Lei, in questo, diciamo, tirare la cinghia di tutti, è d'accordo o no nel ridurre le province? Presidente? Ce l'ha con me? Non ce l'ho, dico, la domanda era rivolta a lei. Dico, lei è d'accordo o no nel ridurre le province? Ma guardi, se si fa una razionalizzazione a livello di territorio, io penso che questa ci possa essere. Io, per esempio, in Piemonte ho realtà che sono anche disponibili a fare un ragionamento per la rivisitazione dei confini. Però io le faccio io una riflessione. Attenzione! Perché le province non sono uno spreco, chi dice questo, le province che hanno veramente un senso, non conosce la realtà, non conosce come funziona l'amministrazione. Io le faccio un esempio, il Piemonte, bisogna parlare a ragion veduta, non così tanto per dire, il Piemonte è una regione molto estesa che ha 1206 comuni, e io non ho le province che fanno la manutenzione delle strade o la manutenzione per quanto riguarda gli edifici scolastici, si occupano gli edifici scolastici, io le strade non posso gestirle direttamente io come regione, non la posso fare io la manutenzione delle strade come regione, e neanche posso farla fare ai comuni. Lei si immagini, io ho 1206 comuni, anche piccoli, quindi dovrei creare un altro ente intermedio per fare questo lavoro. Quindi attenzione quando si parla, a conoscere la realtà e a non fare di tutto un'erba un fascio. Ecco, quindi ho capito, dice alcune province, ma non l'istituto delle province. Un'ultima domanda, lei ha lasciato il doppio incarico, perché leggevo un'intervista in cui annunciava che a breve l'avrebbe fatto. Sì. Si è già dimesso da deputato. Beh, questo è comunque un segnale importante. Speriamo che... Voglio dirle una cosa, perché lei ha fatto finta prima, quando mi intervistava, di non capire che questi sprechi li aveva fatti la giunta Brescia. No, l'ho capito benissimo, tant'è che... Non ho visto che... No, tant'è io che... Volevo dirle che mentre sono stato deputato, ero ancora deputato e governatore, ho rinunciato allo stipendio da governatore, a qualunque tipo di indennità, rimborsi, anche se ne avevo, diciamo, i rimborsi spese sono stati spese vive, quindi ho fatto risparmiare dei soldi. No, ma io sono, guardi, abbiamo ascoltato con attenzione anche delle cifre allucinanti sulle spese che va la precedente gestione della regione dell'edificio a Roma, così come io ricordavo che comunque il Piemonte, al di là di chi lo governasse prima e adesso, è una regione come altre che ha chiuso i conti in attivo, per cui non è una regione che è in deficit. Questo, insomma, va dato merito a lei, ma soprattutto anche a chi l'ha preceduta. Le cose le facciamo sentire tutte, non ci mancherebbe. Mi interessava la posizione, appunto, come lei dice, più costruttiva, perché se si va al muro contro muro, regioni, diciamo, Stato, probabilmente non se ne esce. Grazie quindi al Presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota. Da Sebastiano Barisoni l'augurio di una buona serata. Noi ci risentiamo come sempre domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.